non devi mai ascoltar nessuno, o non vivrai, prendi quel che dà la vita, o lo perderai, c'è una cosa sola che non puoi fare, far del male a qualcuno, questo solo non. Guardare.